Sono le ore 18:41 di lunedì 11 giugno 2018, e quello che avete sentito è l'ultimo jingle del badge della sede di Viale Trastevere, di Via dei Saliceti. E se questo è un rito che oggi si verifica per l'ultima volta, l'ultimo colpo di badge nella sede di Viale Trastevere, oggi succede anche una cosa per la prima volta, e cioè provo a registrare un podcast con questo nuovo strumento, un Tascam DR40, si chiama così, sicuramente un po' più professionale, anche se devo ancora prenderne il controllo. Come sentirete, ogni tanto il vento entra inesorabilmente nei microfoni, spero che quando registrerò dall'auto questo non si verifichi. Però il tema di oggi è soprattutto questo cambio completo di paradigma, perché se è vero che abito alloggiata molto fuori Roma, di fatto vivo la città soprattutto attraverso il luogo di lavoro, che è il vero baricentro, perché poi uno da lì o torna a casa o organizza il resto della propria giornata. E farlo in Viale Trastevere come adesso, oppure farlo invece a Piazza Fiume, che è dove mi ritrasferirò in Corso Italia, alla sede di Corso Italia, beh, cambia completamente tutto, cambia l'ambiente, si passa da Roma sud-ovest a Roma nord-est, cambiano soprattutto le persone, perché beh, io qui mi ero molto molto adagiato, ecco, sulla tipologia di pausa pranzo che si può fare, soprattutto andando in bicicletta. Andavo al mercato Testaccio quasi tutte le volte, che è uno dei pochi posti che davvero socialmente funzionano in questa città. Quasi sempre andavo al banco di Letizia, che preparava degli splendidi bagel o degli hamburger, eccetera. Era facile conoscere le persone più strane di ogni fascia d'età, e ogni volta era davvero un'esperienza sociale, non c'erano gruppi di appartenenza, non c'era niente di precostituito, non c'erano soprattutto compartimenti stagni, fasce d'età, di reddito, eccetera. E invece adesso sarò catapultato in un posto dove le persone che si vedono anche solo per la pausa pranzo si somigliano tutte. E sono soprattutto persone un po' incravattate, che sembra sempre che ti debbano un po' vendere qualcosa. Poi sarà un mio pregiudizio, però c'è tutto un indotto abbastanza livido che ruota intorno a questi grandi uffici che ci sono intorno a Piazza Fiume. Sono grandi aziende, quindi c'è tutto un sottobosco di consulenti, ci sono tantissime di queste ragazze trentenni con l'auricolare, che parlano sempre perché devono sempre fatturare in qualche modo, e hanno quasi sempre una bottiglietta d'acqua Penzoloni vicino al tailleur, mentre parlano in questo telefono di ore da fatturare al cliente, di riunioni, di conference call, eccetera. Ecco, questi sono discorsi che magari in quell'ora di pausa in cui uno vorrebbe staccare, uno preferirebbe non sentire. E mi riusciva tra Trastevere, Testaccio, Roma Sud-Ovest, diciamo la parte della città un po' d'elezione per me. Non ci ho mai avuto la casa, però ci ho passato tanto tempo, soprattutto in questi ultimi mesi, e cominciavo a sentirla mia. E proprio mentre mi sentivo parte del paesaggio, ecco che vengo ricatapultato nell'area di appartenenza originaria, perché poi alla fine io ho sempre vissuto a Roma Nord, con qualche eccezione. Per la verità ho vissuto anche per un certo periodo vicino a Santa Maria Maggiore, lungo via Cavour. Poi c'è stata una breve fase in cui stavo a Ponte Milvio, ma prima che esplodesse tutto il macello dei Lucchetti e diventasse un luogo trendy.